Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, ci siamo. Abbiamo finito, siamo pronti. Eccoci qua, benissimo. Buonasera a tutti. Rockaway, ennesima puntata del mercoledì. Stasera abbiamo un gruppo di Brescia. Ha fatto un po' di strada. Venite a San Benedetto del Tronto, San Benedetto del Tronto, Padova e poi Brescia. Esatto. I Van Cleef Continental. Buonasera e buon viaggio. Buonasera, buonasera. Grazie a tutti. Buon viaggio. Buon viaggio, Luigi. Ciao, grazie. Come è andato il viaggio? Velo. Sì, abbastanza lungo. Abbastanza lungo. Siamo un po' stancucci, però siamo contenti di essere qui. Siete stati qui, siete venuti qua perché avete voglia, assolutamente voglia di suonare. Molta voglia di suonare, sempre voglia di suonare. Ma siete venuti tempo fa, tu sei venuto tempo fa. Io sono venuto... Con un'altra formazione, anche sì. Te. Sì. Io sono alla mia terza partecipazione. Con un'altra formazione, sì. E sono venuto la prima volta, credo 7 anni fa, con i Bogarts, che erano il gruppo che avevo all'epoca. E poi sono venuto con la prima incarnazione dei Van Cleef Continental. Aiutami. Sì, quattro anni fa. È una bella, musicalmente parlando, era un gruppo un po' particolare, meno solare, se mi è consentito il termine di questo, un po' più cupo, ancora più cupo, secondo me. Non sì, so ancora... se decisamente sì, è vero, un po' più cupo. È vero, però. Non che adesso si sprizzi no, raggi di sole. No, però c'è un modo diverso proprio di interpretare musicalmente parlando. E l'evoluzione com'è stata, Andrea? Poi parliamo anche con gli altri. Guarda, l'evoluzione è stata lunga, nel senso che si può sintetizzare brevemente nel dire che quella che è adesso attiva è la formazione definitiva di Van Cleef Continental, che sono diventati effettivamente un vero gruppo e non un progetto di un songwriter con all'interno qualcuno che gli dà una mano. Tutto il gruppo è coinvolto molto attivamente nella gestione delle attività del gruppo stesso e c'è una sensazione di condivisione, di socialità che prima non era presente. È vero, quindi, questa è una cosa interessante. Questa è una cosa molto interessante, credo che il rock and roll abbia a che fare sempre con la socialità, con la dimensione di vivere sociale. Di conseguenza, se una band rock and roll ha questo tipo di dimensione al proprio interno, riesce magari a trasmetterlo meglio anche all'esterno. Una band rock and roll che prende non so se posso dire giusto, l'ispirazione, il momento, certe sonorità anni 80 americane, molto americane secondo me, un po' lisergiche, molto lisergiche. Sì, credo che sia giusto, l'underground americano degli anni 80 è molto interessante perché negli anni 90 poi è esploso tutto quello sì. Che era tutto quello sotto, negli anni 80 invece rimaneva sotto, era una scena molto marginale che però aveva delle caratteristiche interessanti e mi è sempre piaciuto il suo essere marginale, ad essere concepita come tale dagli stessi protagonisti che lottavano per emergere tra mille difficoltà. Credo che fare rock and roll in Italia sia comunque una cosa molto difficile. Anche adesso, chiaramente. Anche adesso. Anche se ci sono esatto. Dei gruppi notevolissimi. Qualcosa però. Viene fuori, sì, fortunatamente, con gli anni. È comunque sempre un'attività di sottobosco, sì, un'attività difficile. Sì. E quindi credo che ci possiamo riconoscere magari anche in questi gruppi che là nella parte del rock and roll facevano comunque fatica a proporre un suono un po' diverso rispetto al solito. Beh, li presentiamo questi componenti di Van Cleef? Allora. Assolutamente sì, direi che li facciamo presentare a loro stessi. Si presentano da soli. Vai. Ciao, io sono Elena, Lady Cortez per gli amici e non amici. Tastierista. E Elena per gli altri. Tastierista. Pianoforte e organo. Benissimo. Batterista? Ciao, io sono Elgast, sono la batteria appunto, sono con i Van Cleef da 2 anni. Circa. Quindi sei una new entry. Sono l'ultimo arrivato. Ecco. Benissimo. Ciao, io sono Blodio e mi occupo delle chitarre. Tutti i tipi di chitarre praticamente, quella elettrica, quella acustica. Sì, no, beh, in realtà un po' di acustica, se ne occupo sono anche Andrea. Il capo. Grande capo, grande capo. E mi occupo di quelle elettrificate. Ok. Benissimo, questa è la formazione dei Van Cleef Continental. Cosa diciamo? Sì, diciamo che possiamo aprire la finestra come facciamo sempre. Apriamo la finestra mettendo il primo pezzo dell'album. Innanzitutto il titolo dell'album è una cosa interessante, è stato prima scoperto dagli americani. Come mai, Andrea? Allora, la genesi dell'album è stata veramente travagliata, è lunga, adesso cerco di sintetizzare perché... Abbiamo tempo in ogni caso. Fortunatamente perché non ho mai avuto il grande dono della sintesi, che apprezzo ma non ce l'ho. E, allora, questo disco è stato concepito nel 2006. Sì. Ok, ed è stato registrato in parte alla fine di quell'anno. E c'era un contatto che era maturato con il precedente EP che vedo che avete conservato, sì, ancora gelosamente abbiamo conservato ancora qui, con un'etichetta americana. ritardi nella lavorazione dell'album, però dovuti sia a problemi nella fase di missaggio che a problemi di organico della band, hanno fatto sì che il disco ritardasse molto, che quindi l'etichetta americana che avrebbe dovuto pubblicarlo in origine avesse poi dei problemi a pubblicarlo poi dopo, così in ritardo, quindi è slittato, l'etichetta ha declinato la sua disponibilità e ci ha girato a un'altra etichetta. Ci è voluto un po' di tempo per riuscire a maturare questa cosa. Nel frattempo noi avevamo anche un'etichetta qui con la quale però abbiamo avuto dei problemi, che quindi abbiamo mollato. Abbiamo visto il CD, l'abbiamo toccato materialmente ed è poi svanito nel nulla sì. Esatto, in qualche meandro. Si narra che siano stati bruciati, tumulati, sepolti, cremati, come l'ultimo Tango a Parigi è stato bruciato. Esattamente, una cosa di questo tipo. Noi non avevamo nessun contenuto osceno perché siamo delle brave persone. Quindi è sparito praticamente. Quindi ci è voluto un sacco di tempo ancora per riuscire a riorganizzarsi. Nel frattempo però fortunatamente la band si è stabilizzata con i nuovi ingressi, l'ultimo dei quali Simone la batteria, esatto, che era veramente l'elemento che ci mancava per avere una dimensione di grande famiglia all'interno del gruppo. E grazie a questa cosa abbiamo reinciso un brano che era Dry Queens e abbiamo registrato tre canzoni nuove, integrando così le vecchie registrazioni. Quindi l'edizione americana è diversa dall'edizione europea? L'edizione americana è diversa da quella europea. Ah, ho capito. E infatti il disco è poi uscito negli Stati Uniti nel marzo del 2008. Vedi che il tempo mi sfugge. Il tempo corre. Tempus fugit. Marzo 2008. E da quell'edizione americana all'edizione italiana sono poi passati un anno e mezzo. Di conseguenza, nel frattempo, la cosa positiva è che la band si è stabilizzata. Certo. Abbiamo fatto dei nuovi pezzi che secondo me aggiungono delle sfumature significative per l'idea di musica che abbiamo e che vogliamo proporre. E l'apporto, infatti, di questa band attuale che ci ha lavorato è stato fondamentale. Benissimo. Ecco, volevo solo aggiungere una cosa, perché ci siamo presentati tutti, ma in realtà manca un componente del gruppo che è Lobo, si chiama Paolo, ma per gli amici Lobo come tutti noi, e suona le percussioni nel gruppo, non c'è perché è per un mese in Germania e quindi c'è anche lui, insomma, lo salutiamo. Benissimo. Ciao Lobo. Ok. Allora adesso apriamo la finestra. Prima di aprire la finestra citiamo il nostro staff, Michele Toson, mitico Michele in regia, Alberto mitico. Prisco che ha condotto, che ha organizzato tutta l'esibizione vostra stasera, che è il nostro direttore artistico, la nostra redazione tutta femminile che è Nicoletta, la Silvia e la Patrizia, Roberto Badi che ha curato le telecamere, Agostino che cura le fotografie. Stasera abbiamo una vostra fotografa ufficiale, che il tuo nome non mi ricordo più. Tulli. Perfetto, la fotografa ufficiale della band. Questo è lo staff, quindi possiamo cominciare a sentire il primo pezzo. Che pezzo avete deciso di far sentire? Abbiamo deciso di far sentire come primo pezzo il singolo, quello per cui abbiamo girato anche il video, che è una cover. Esatto. E dico già che cover sì, dici che cover è. È una cover di Mike Oldfield, si chiama Moonlight Shadow. Bellissima, è bellissima, anche la cover. Ascoltate bellissima. Attentamente. Rock Wave, l'onda del rock. L'onda del rock. Shadow, he passed. È stato un successo mondiale di Mike Oldfield. Può diventare un successo mondiale di Van Cleef Continental? Non si sa. Come mai queste risate? Non si sa. Tendo ad escluderlo. Basterebbe un successo regionale. Ah, un successo. Come è andata l'idea di prendere questo pezzo famosissimo di Mike Oldfield, questo pezzo presunto folk, con Maggie Reilly, la voce meravigliosa, e rimetterlo in carreggiata alla Van Cleef Continental? Allora, innanzitutto io mi occupavo anche della produzione del disco, sì? Dal punto di vista artistico, e con l'etichetta stavamo cercando una cover forte, sì? Cioè quindi un pezzo non qualunque, diciamo, da sottoporre a Van Cleef e da trasformare e da rendere. Moonlight Shadow è stata scelta per numerose ragioni. Innanzitutto è stato un singolo clamoroso in Italia, perché è stata un numero uno nell'82 in Italia. Verissimo, dall'album Crisis, mi pare. Crisis, perfetto. Cosa seconda, ma non meno importante, è personalmente per me il primo ricordo musicale che ho. È la prima, è stata la prima canzone che mi ha fatto innamorare della musica, cioè che l'ho ascoltata tipo 800 volte di fila la cassettina fino a distruggerla. Certo. E parlando con Andrea. Abbiamo trovato un punto di contatto tra le nostre vite musicali in questo, perché anche lui ha comunque un ricordo legato a Moonlight Shadow. Quindi dal folk alla una trasformazione totale, cioè siete entrati in studio di registrazione, avete detto questo è il pezzo di Mike Oldfield, se voi, se gli ascoltatori l'avete sentito, la linea melodica è appena accennata, c'è difficoltà, si deve scavare per trovarla, secondo me. Sì, beh, perché ovviamente essendo un pezzo così famoso e anche comunque con una struttura melodica assolutamente tra virgolette banale, sì, nel senso che gli accordi sono semplici, la adoriamo, però è banale, sì, rifarla così com'era sarebbe stato banale, ma oltre che banale sarebbe stato veramente triste. Certo. Per cui non senza fatica l'abbiamo un po' stravolta, l'abbiamo resa Van Cleef, ed è stata anche veramente un travaglio in studio questa canzone, cioè mi è impiegato una vita a farla, perché l'avevamo c'era fatta, sempre qualcosa non funzionava, l'avevamo fatta molto più rock. Ah, ho capito. E poi abbiamo cercato di dargli quell'onda magari più Depeche Mode, sì, ecco, le cose un po' più scure di Depeche Mode, E alla fine, vabbè, siamo contenti di quello che è uscito. No, è uscito un pezzo veramente interessante. Cioè, Alberto, quando mi ha presentato il disco, ha detto: devi fermarti su questa cover di Mike Oldfield. Va bene, ci fermiamo, la sentiamo. E aveva ragione, cioè, ripeto, l'approccio è stato un po' difficoltoso, perché non riuscivo a capire. Poi ho capito che era la melodia, avevo letto prima, se io non avessi letto il titolo del pezzo, ma che non cos'è? L'avresti riconosciuto. Non l'avevi riconosciuto. Ma in realtà, se posso aggiungere una cosa a quello che stava dicendo, è un indice anche un po' della nostra crescita, no? Certo. Visto che questo pezzo tutti noi ce lo ricordiamo, che eravamo dei ragazzini. Benissimo. Non siamo più dei ragazzini, abbiamo avuto delle influenze musicali non da poco nel corso di questi anni, e quindi questo pezzo riarrangiato in questa maniera e fatto in questo modo rappresenta un po' anche la nostra maturazione dal punto di vista musicale. Questo sicuramente c'è. Io nella presentazione ho scritto che è dark, però forse ho sbagliato, non è propriamente dark, è un pezzo di Van Cleef Continental e basta, secondo me non è dark. Il dark è l'oscuro, forse nei presupposti, ma non è proprio così. Non so se siete d'accordo. Adesso sto rimangiando quello che ho scritto nella presentazione. È molto comunque personale e riconoscibile. Certo, e questo certo. In una cover è comunque notevole. È una cosa, dal vivo come lo fate? Stasera non lo abbiamo sentito dal disco, ma dal vivo come si può fare un pezzo? Dal vivo non è semplicissimo, nel senso che credo che sia in assoluto il pezzo in cui prendo la nota più bassa che abbia mai preso in vita tua. In tutta la mia carriera, non onoratissima. Beh, insomma, qualche anno. Di conseguenza, riuscire a inserire questo tipo di approccio in un live che è molto rock, è molto tirato, è abbastanza difficile. Certo. Quindi non sempre la eseguiamo dal vivo, e la eseguiamo, secondo me, nella maniera migliore quando abbiamo dei concerti acustici o più intimisti, in cui si lascia un po' più spazio al respiro degli strumenti e alle dinamiche, invece di... Sì, ho capito. Tirare botte in continuazione, come facciamo di solito. Una cosa ti devo chiedere, l'ho chiesto a parecchie band, però questa è una cosa molto particolare. Il numero della traccia del pezzo di Moonlight, che traccia, che numero è? Vi ricordate? È il 4. E come mai è al centro dell'universo sonoro dei Van Cleef? Perché sono 11 pezzi, quasi a metà. Come mai? C'è un'idea, c'è un motivo? Questa, la tracklist l'ho fatta io, poi vabbè. Non è stata fatta a caso, è stata fatta volutamente così. No, assolutamente non quello, a caso. Quello, volevo arrivare a quello io. Diciamo che ho studiato buona parte dei dischi che ho in casa, cercando di capire come, ma è da un po' questo, da tempo che faccio questa cosa, cercando di capire come le band o le produzioni per le band stilino una tracklist. E comunque in un disco bisogna partire alla grande, sì. Cioè, se i primi 5-6 pezzi del disco sono pezzi in canna, il disco è in canna, anche se la seconda metà non è così forte. Non è in canna. Un esempio che abbiamo trattato ultimamente noi, diciamolo insieme, è The Joshua Tree degli U2, sì. Che è un disco definito epocale, sì, certo. E per me epocale, è un disco per me della massimo. Mia crescita. Se ascoltiamo bene quel disco, ha un primo lato indimenticabile, 5 singoli uno dietro l'altro. È verissimo. Ha un secondo lato assolutamente trascurabile. E questo è vero. Non sono d'accordo per dire trascurabile. Sì, trascurabile, tra virgolette, nella media dei pezzi degli U2. Diciamo. Sono d'accordo con te. Sono d'accordo. E quindi abbiamo cercato di mettere nella prima parte del disco i pezzi con la dinamica giusta per acchiappare. Ecco, questa è una bellissima spiegazione, perché è vero, è proprio così. Cioè, non è... Le tracce sono messe là volutamente in questa maniera. È una spiegazione chiarissima, così anche un ascoltatore può capire il perché ci sono determinati pezzi in quei numeri là. È fondamentale, secondo me. Assolutamente. Ok, passiamo all'altro pezzo, sempre dal disco che abbiamo scelto, e dopo partiamo con i live. Traccia numero uno, mi pare. Traccia numero uno è Dry Queens, e questo è appunto un pezzo che era già presente nel demo, demo vecchio. Certo. Ma che invece è suonato dalla band attuale, ha acquistato una nuova dimensione, secondo me molto... Una nuova forza, anche se una nuova forza, sì. Infatti il pezzo è stato un po' riarrangiato, in realtà sembra simile, ma ci sono dei piccoli dettagli che in realtà hanno fatto la differenza, e si sente tutto l'impatto della band nuova. Perfetto. Rock Wave, l'onda del rock. Love. SMS 346 2320 033 Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ok, ci siamo. Abbiamo sentito il secondo pezzo dall'album. Questa ricostruzione di un pezzo che non è nuovissimo, è stato scritto da te o da tutta l'altra, gli altri componenti della band. L'hai scritto solo te questo pezzo o qualche altro? Sì, ho scritto solo io. Solo sì. Te. E poi l'avete rimesso a posto, l'avete ricostruito? L'abbiamo ricostruito, sì. Ricostruito nel senso del termine? No, l'avete un po' modificato. È un po' modificato. C'è lui in batteria, c'è la batteria, suona lui. Innanzitutto c'è lui la batteria, che ha uno stile diverso. Dimmi che stile hai messo in questo pezzo. Il mio è tuo. Nel senso che io sono alla prima esperienza con questo genere. Tu mi pare io vengo dall'heavy metal. Ma dal death metal, quello più estremo. Nel corso, diciamo, della mia carriera, sono circa 20 anni che suono. Però. Adesso ho suonato di tutto, ho suonato anche rock, blues e così via, però principalmente facevo proprio tutt'altro genere. Mi hanno chiesto di far parte di questa band, io li avevo già sentiti, mi piacevano, e ho detto perché no, proviamo. Quindi probabilmente ho dato questa impronta un po' più dura, ecco. Però non è molto duro questo pezzo, è duro, cioè è vivace, ma non è duro. No, sì, quello sta proprio nell'interpretare... Le direttive del capo. No. In questo devo dire, ecco, una delle preoccupazioni poteva essere quella di arrivare in un altro gruppo, come la mia precedente esperienza, dove c'era il capo che ti diceva fai così, fai cosa. Non c'era democrazia. No, allora. Assolutamente. Mentre il bello, secondo me, proprio di Van Cleef Continental è questo, che siamo, come diceva Andrea prima, siamo diventati una grande famiglia. grande, siamo in cinque, vabbè. abbastanza grande, una bella così. Famiglia, un bel band in cinque, e c'è veramente una libertà di espressione con una diciamo una unione di intenti quasi perfetta, ecco. Ecco, una cosa vi volevo chiedere: quando Andrea o chi peraltro costruisce un pezzo, come vi trovate? Cosa fate? Le idee come si mettono assieme? Cioè lui non so, cita un riff, tu citi un riff, e Elena un riff, tu lo stesso, e poi cosa succede? Ma allora, innanzitutto i pezzi arrivano tutti da Andrea. Cioè, li convoglia tutti. Il songwriter della no, band, parlo musicalmente Andrea. Parlando, non dal punto di vista del. Scrive la canzone. Ah, okay, scrive totalmente la canzone. Dopodiché la canzone arriva in sala prove. Arrivano le canzoni in sala prove, solitamente arrivano 3-4 canzoni. Di queste 3-4 canzoni viene fatta una prima cernita. Ho capito. Prepariamo queste 3. E poi su ogni canzone viene applicato una logica produttiva o pre-produttiva, per cui si smussano gli angoli, si prende, si gira, si volta, si smonta. Finché la cosa non convince. Ok, ho capito. Cioè c'è una discussione positiva nel pezzo stesso. Sì, in linea generale si potrebbero intravedere, diciamo, dei compiti all'interno della band. Ah, ho capito. Perché comunque Andrea scrive e porta. Tu cosa fai? Io sto più dal lato della produzione, cioè come se fossi una sorta di direttore d'orchestra. Ho capito, cioè convogli gli input di Elena, sì, o del batterista? Perfetto. Cerco di fare quagliare il tutto. Mentre Elena, che ovviamente ha una preparazione accademica, diciamocelo, in materia musicale, è quella che dal punto di vista degli arrangiamenti ovviamente può dire la sua. Può dire la sua ampiamente. Ah, ok, ho capito. Quindi c'è una divisione di compiti, insomma, senso democratico del termine, decisamente, sì, democratico. Ma talvolta non c'è sempre qualcuno che porta anche la birra, cioè, mi insomma, pare, ecco, giusto, quello è democrazia, sono anche quella, quelli i compiti, portare la birra è la democrazia, certo. Anche quella c'è poco da fare. Poi la democrazia, adesso siamo democratici tutti, facciamo sentire il primo pezzo dal live. Che pezzo avete deciso di farci ascoltare musicalmente parlando? Direi di cominciare con Junior Bonner, che è un pezzo che eseguiamo spesso nelle versioni acustiche. Live, acustica. E è presente anche sul disco in una versione molto molto elettrica. Sì, esattamente, decisamente elettrica. Ma stasera la facciamo tranquilla, che è anche bello, perché poi alla fine apprezzi più certe sfumature e racconti un po' le storie. Che, esatto. Che è comunque una componente, secondo me, importante della musica rock. Certo. Rock Wave, l'onda del rock. Turns to gray, going higher than the sun. I'm going higher than anyone, going higher than the sun. I'm going higher. Take me down to the valley of rain. Come take me away, come take me home. You know how to make me a believer. You make believe, but I believe in this. Red Raven, you know I know your name. Come by my knees, come still my day. We spend the day together. Your wings are gone, but your blade is hanging. Going higher than the sun. I'm going higher than anyone. Going higher than the sun. I'm going higher than anyone. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Sì, ok, benissimo. È una visione velvettiana questa cosa. Bellissima, mi è piaciuto tantissimo perché mi ricordava molto i Velvet. Poi tu hai una voce particolarissima che colora in senso basso, cioè nel senso positivo, però basso è il discorso. E Velvet Underground, poi lei suonava la tastiera, tutto perfetto. Velvet Underground. Assolutamente Velvet Underground, secondo me. Io l'ho sentita così, dalla versione dura, abbastanza vivace del disco, a una versione acustica, sì, ma molto velutata e molto velvettiana, c'è niente da fare. La East Coast stasera, non la West Coast, anche se voi siete un po' West Coast, secondo me. I Velvet Underground sono un gruppo dal quale è difficile prescindere, nel senso che se i Beatles e i Rolling Stones sono le icone per cui i Beatles hanno originato gran parte del pop, e certo, Rolling Stones magari la musica rock, l'alternative rock proviene in gran parte da quello che hanno fatto i Velvet Underground. Sì, John Cale e Lou Reed, due geni che si sono sempre scontrati, e Nico, l'icona che era sempre vicina, se ne andava, ritornava. E i Velvet era un grande gruppo, grazie a Andy Warhol, che ha inventato questo, ha inventato lui era un inventore, se mi è consentito il termine, un artista, un genio, però la musica la tirava fuori Lou Reed e John Cale. C'è poco da fare. Senza contare che anche Sterling Morrison non era male. Anche è molto brava anche lei, c'è poco da fare. C'era un bel... Un bel connubio, belle cose. Belle poi cose. Il connubio si è rotto perché uno doveva primeggiare sull'altro, sono le solite cose. Però due geni che vanno avanti, che proprio un'intensità non indifferente. E questo pezzo qua che voi avete fatto in questo momento mi ricordava molto quelle atmosfere là. Bello, secondo me è molto bello, molto significativo, molto affascinante. Alle 22:43 43 di questa serata di Rock Wave di aprile. Fa caldo stasera, però fa caldo anche musicalmente parlando, e quello è bello. Ma io volevo aggiungere una piccola cosetta sul discorso di questi pezzi acustici che sono così diversi, se vuoi, rispetto all'album, ma proprio perché c'è una ricerca dal punto di vista musicale di non fare l'acustico semplicemente come il pezzo suonato con gli strumenti acustici. L'acustico deve essere un'altra dimensione di suono, ecco. Per cui è come se si riarrangiasse il pezzo da nuovo. Per cui ecco, questa cosa sicuramente è proprio una ricerca. E dal vivo lo fate? Lo facciamo anche così. Lo fate anche così? Sì, sì, anche così, sì. tirato, cioè, tirato nel senso in questa maniera qua, in questa maniera... descritto in questa maniera qua, praticamente sì. Un po' soffuso, ma soffuso per modo di dire, chiaramente. C'è pathos dietro, anche se sembra non ci sia, ma c'è. Sì, il tentativo che noi facciamo, che quando, anche quando facciamo dei pezzi magari acustici più tranquilli, di mantenere un'intensità simile a quella che c'è nei pezzi elettrici. Esattamente. E sai cosa mi ricordate? Nessun critico l'ha citato, però io non sono un critico, però in qualche momento i Red House Painters mi ricordate. Ah, i Red House Painters, sì. Secondo me c'è qualcosina, ma è una cosa mia personale, basta che termina qua e finisce qua. Però qualche punto di riferimento, lì, qualche input. Li conosco, ho un solo disco loro. Non gli American Music Club, anche quelli sono molto bravi. Sì, quelli sono molto bravi. Però i Red Hot Chili sono molto più cupi, voglio dire, meno solari, ma non, questo non vuol dire assolutamente niente. E in qualche momento mi ricordate loro, però chiaramente è una mia ipotesi. Ce n'è tanta poi di musica. C'è musica americana di grande valore, ce ne sono beh, tanta, sì. Ce n'è tanta. Sì. A proposito di musica, io proporrei di fare un altro pezzo dal disco e poi cominciamo, ritorniamo con il live. Che traccia avete scelto adesso? Abbiamo scelto la 6, forse. Traccia numero 3. No, vuoi, la 3. La 3, ne vuoi parlare adesso 3. O ne parliamo dopo? Cosa dici? Ne parliamo dopo, dai. Parliamone dopo, parliamone okay, dopo. Ok, perfetto. Ascoltiamo. Sì. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Diretta rockway.altervista.org, ci potete vedere e sentire stasera con le telecamere, quindi ci hanno visto. Assolutamente. Ciao a tutti. Speriamo che tutti sia un qua. Bel vedere, insomma. Ma, decisamente un bel vedere. Ho letto nelle note qui che ho tirato fuori da internet che c'è stata una bella festa per la presentazione dell'album a Brescia. Sì, c'è stata una festa importante. Io ti posso dire, poi magari te la racconterò anche gli altri. Bene. Ti posso dire che è stato molto bello perché ci sono stati tanti ospiti. E quindi sempre per quanto riguarda la dimensione della socialità, della condivisione, certo, della musica rock, oltre a esserci il nostro gruppo, c'erano tantissimi ospiti che hanno suonato in versione acustica prima, fra cui Marco dei Rastis, che ci ha prima mandato un messaggio, che salutiamo, certo, Marco e Osvaldo dei Rastis, gli Intercity, i Plan de Fuga, che sono venuti qua a suonare anche loro, Dario dei Don Turbolento nella sua nuova versione acustica, e mi sto dimenticando qualcuno? Alberto Belgesto. Alberto Belgesto, cantautore di Brescia. E quindi è stata una festa molto importante, anche perché è stata una condivisione fra varie realtà organizzative di Brescia, qui magari ti può spiegare meglio. Sì, allora la nostra etichetta, l'etichetta che ha distribuito il disco in Italia è Casa Molloy, che è legata all'omonimo locale bresciano, Latteria Artigiana Molloy. Perfetto. E, la latteria in quell'occasione chiuse per favorire la conquista dei Van Cleef Continental al Latte Più. Ah, ho capito. Che è un locale di un altro tipo, cioè un locale dove girano band di quel gradino superiore, quindi Baustelle, non so, ne faccio un cito, se ho capito, Teatro, perché adesso Orrori, sono sulla bocca di tutti i Baustelle. E in più il nostro fonico è comunque anche legato a un'altra realtà di locale bresciano, per cui anche lui fece in quell'occasione promozione sull'evento. E forse per la prima volta nella storia musicale bresciana, che è una storia molto, molto complicata dal punto di vista dei locali, ce ne sono un sacco e c'è una concorrenza spietatissima. Tre locali stavano promuovendo lo stesso evento. Ah, però, bello questo. E infatti è venuto un evento veramente notevole, da paura, come si suol dire. Visto che ci siamo, citiamo anche i musicisti che hanno collaborato con voi nel disco, oltre a voi chiaramente. Oltre a noi ci sono i vecchi membri della band, che sono Simone Gelmini, Matteo Crema e Marco Frazzone, che ha suonato la steel guitar in Skulls, e basta, credo. Basta, non ci sono. Basta, la credo, produzione sì, vostra avete 5. Fatto tutto voi praticamente. La produzione artistica sì, è nostra, nel senso che chi ha lavorato a questo disco, chi ci ha suonato, ha collaborato alla produzione artistica. Per quanto riguarda gli ultimi pezzi e la visione generale un po' della veste sonora del disco, il ruolo chi all'interno della band si occupa di questa cosa è Blody, il chitarrista. È Blody, il nostro chitarrista. Che il suo ruolo è un po'. Cioè un il po' produttore, quello. Sarebbe il produttore, cioè chi tira le fila poi. Chi tira le fila è lui, ognuno ha i suoi ruoli. Poi ecco, è importante dire che sì, i pezzi li scrivo io, sì, però non è che un pezzo sia fatto solo da chi lo scrive. Ho capito. Ed è una cosa che magari poi si sa poco, per chi non lavora su queste cose, che si tende sempre a identificare un pezzo con chi l'ha scritto. Ok, sì, è ovvio che la genesi di questa cosa arriva, ma come il pezzo arriva e il significato che le parole assumono e come vengono cantate le parole è il significato di un lavoro collettivo. Ho capito. Di conseguenza, per questo i nostri pezzi nascono in dimensione della band, anche se poi magari li scrivo io, ma questo è solamente, può sembrare una parte, non è l'unica parte, nel senso una canzone è fatta di tanti aspetti. E a proposito delle band che vengono a suonare nei locali, io ho chiesto spesso e volentieri alle band che vengono qua se hanno difficoltà a suonare musica propria. No, non è vero, no. Sì, perché Vasco e Liga, adesso Liga uscirà con un nuovo disco, quindi ci saranno cover su cover, ma come mai? Perché c'è sempre questa difficoltà? Tutta la gente chiede continuamente sempre solo le cover, ma non ci sono solo le cover. Le cover va bene, una, due, ma poi il resto è musica propria, vostra. Allora, secondo me sono diversi fattori, tra cui il fatto che in Italia si tende a massificare tutto e a rendere tutto il più commerciale possibile. Cioè tu in radio senti sempre gli stessi pezzi tutto il giorno. Non è caso nostro. Non in questa radio. In questa radio. In generale. E di conseguenza va a finire che anche un pezzo che magari non ti piace lo canti quando poi vai a farti la doccia. Sì, no? Certo. Ti entra nella testa. E va a finire che vuoi ascoltarlo anche quando hai spento la radio. Quindi dopo vai a ascoltarti cosa? Il tributo al gruppo, come ho capito, e così via. Certo. Cioè invece di promuovere una cultura un po' più indipendente, un po' più variopinta, diversa, si tende a massificare tutto e a prendere quei 10, 20, ma anche 50 artisti e basta. E quando esce un singolo di uno di questi che fanno ruotare le case si ascolta quello e basta. Però il caso di Brescia è un'isola felice. La presentazione del vostro disco è stata positiva, eccetera. Secondo me, comunque, nel 2010 possiamo anche dire che va quasi bene così. Cioè io faccio musica dal 1989. Quindi da parecchio tempo. E nell'89 veramente c'era da piangere. Nel 2010 delle band pseudo indipendenti come gli After Hours o i Bostelle o il Teatro degli Orrori, che fanno i numeri che fanno in questo momento, comunque è tanto di guadagnato, è una speranza, è una cosa positiva. Certo. Poi Brescia, vabbè, a Brescia è più cool suonare pezzi propri che cover, quindi c'è un giro di locali per i pezzi propri, un giro di gente che ascolta, che è un po' quello che succedeva a Catania negli anni 90. Sì. Cioè sì. Brescia, penso che non per campanilismo, però sia la rock city la città attualmente. Sì. In testa su queste cose. Sì, ci sono tantissime band e di qualità. Certo. Qualità. Bene, tantissimi locali, tantissimi spazi e, cosa maggiore e essenziale, un pubblico folto che segue questo tipo di band, senza il quale sarebbe tutto ridicolo, esatto, non avrebbe senso. Non avrebbe proprio senso. Mentre ha molto senso sentire un altro pezzo suonato da voi, quello sì, ha molto senso. Okay. Allora guarda, cogliamo l'occasione per suonare un pezzo vecchio. Benissimo. Si chiama Jennifer. Tu ti ricorderai che anni e anni fa ero venuto qui con la mia precedente band, si chiamava Bogarts, esatto. E mi hai detto che addirittura c'è ancora una copia, sì, del nostro CD da qualche parte, nella nostra discoteca, nell'archivio, c'è. Quindi suoniamo un pezzo che a me piaceva molto di quel disco, è uno dei pochissimi pezzi vecchi che suono ancora volentieri, a loro piace tantissimo, di conseguenza. Perfetto. Questa è Jennifer. Ok. Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Jenny walks a water walk into the room. Everybody feels as if the walk and look around to see what's inside. She see me in my black shirt. She sways and she says, give me something strong enough, give me speed, give me things I need. And she says, I just want to feel the ground that shakes and the night thing. I just want to feel the ground that shakes and the night thing. Blows away the smoke, you see. Clear how I react to a bullet in my head. Cause it's just like that. She drives circles in the smoke, drives circles that surround me. Then she laughs at me, sure hair. You sure must be stuffed down, she says. I wanna move all Sundance Club, scroll moon, swim and rave, then kill myself. Is this all a game? I'm here to play. And then I just want to feel the ground that shakes under my feet. I just want to feel the ground that shakes under my feet. Mm-hmm. Sono le 22 e 58 minuti. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Mi è venuto in mente questa definizione di questo pezzo in questo momento. Una cascata di blues, una goccia di punk e un pizzico di psichedelia. Un cocktail da fare. Mi è venuto in mente questa roba qua. Michele non è d'accordo, però a me è venuto in mente questa roba qua. Lo so, ma sai, a me mi ha dato questa sensazione. Ma quando blues, si parla... sicuramente il blues sì, c'era. Sì, sì, sì. Come lo cantavi in blues, secondo me. Il punk c'era perché c'era questa tensione in quel momento della chitarra con la solista all'elettrica che suonava Paolo. E poi c'era questo pizzico di psichedelia, questa tastiera di Elena, secondo me. E questo la sentivo così. Ma sono i tanti elementi che sono un po' le tante anime che siamo. Tante è un po' retorico le tante anime. Esatto. Però vabbè. Beh, siamo cinque. Sono tante teste, esatto. Diciamo. Beh, io stasera, in questo momento, l'ho sentita così. E adesso, in questo momento, cosa facciamo? Facciamo il gioco. I 5 dischi da portare su un'isola deserta. Ore 23:09 secondi. Michele me l'ha detto, c'è il gioco. E ha ragione, c'è il gioco. C'è il gioco, ricordiamoci dei giochi. Chi comincia questa girandola di elementi? Comincio io. Cominci te, dai Paolo. Vai. Anche perché non ci ho pensato e quindi è più bello. Ah, bello così. Ma sì. Posso fare una cosa? Mi posso dire due robe simpatiche su sto gioco? Dimmi. Non fa parte dell'isola deserta, non fa parte dell'isola dei famosi e fa parte dell'isola di Rockwave, che è diverso. Che è meglio dell'isola dei famosi. Certamente, a mio parere sì. Sì. Non solo al tuo. Okay. Beh, è fantastica sta cosa dei 5 dischi dell'isola deserta, perché da un lato uno si porterebbe sull'isola deserta i dischi che l'hanno segnato o che comunque ama, certo, incondizionatamente. È vero. Però probabilmente è neanche un po' piena di storie di sentirsi. Questo è anche vero. Mentre magari in questo momento su un'isola deserta mi porterei 5 dischi che non conosco. Anche qui. Anche qui. Vabbè, comunque dico i miei 5 dischi. Cerco di dirmi 5 dischi. Allora, senza dubbio, Darklands dei Jesus and Mary Chain. Momento, come mai Jesus and Mary Chain? Che adesso c'è stato un ritorno sotto mentite spoglie dei Jesus and Mary Chain. Beh, innanzitutto appartengono a un mondo che è quello inglese. Certo. Che non è un mondo che più di tanto amo. Non sono più un americano in questa scelta che bene o male ogni musicista fa, o inglese o americano. Io sono di sicuro un americano, però ovviamente riconosco che alcuni inglesi hanno veramente spaccato. E un disco che ha segnato proprio la mia esistenza è questo disco di Jesus and Mary Chain. Perfetto. Lo adoro dall'inizio alla fine, e secondo me è pure il loro miglior disco. La critica ritiene che sia migliore il precedente, sì, vero. Psycho Candy. Per me Darklands number one. Ottimo. Di sicuro mi porterei anche Beaches Brew di Miles Davis. Adesso passiamo a un altro mondo, un altro mondo molto molto alto. Sì, beh, Beaches Brew di Miles Davis per i profani è un disco del periodo elettrico di Davis. Vero. È il disco che ha generato, se vogliamo dire, anni dopo il post rock, perché comunque è un caleidoscopio di tutto, di funk, di tensioni armoniche, di musicisti come di unione di musicisti in quel momento come probabilmente non ce ne saranno mai più. È un mitico, assolutamente un album, è un disco mitico, incredibile. Doppio album, ricordiamo. Io lo consiglio nell'edizione, perché i soldi da spendere, nell'edizione 6 dischi deluxe, nell'edizione deluxe in cui c'è tutta la sessione. Quello tra l'altro ho il trip delle produzioni. Quello è stato il primo disco che è stata una produzione in cui il produttore artistico ha avuto un ruolo fondamentale, perché la band suonò delle jam e Tio Massiero, che era il produttore, assemblò il disco, certo, a sua insindacabile volontà. Benissimo. Grandissimo essere. Terzo disco che di sicuro mi porta è un'altra band inglese, qua mi sto rovinando con gli inglesi, è sicuramente Exile Main Street degli Stones. Ragazzi, hai parlato di un disco che non è stato capito all'epoca, invece è stato capito con un po' di tempo dopo. Capolavoro è un capolavoro assoluto del duo Richards. Sì, un periodo particolare di Rolling. Beh, un periodo per certi versi distruttivo. Distruttivo, è devastante. E molte volte dalla sofferenza, dalla distruzione, certo, eccetera, vengono fuori queste perle. Altro disco incredibile che non posso, da cui non posso esimermi, e anche questa volta in inglese, quindi inizio a dubitare di me stesso, è London Calling dei Clash. Che... dobbiamo sollevarci in piedi adesso un'altra volta per i Clash. Questo è un disco, altro disco epocale, bello, bellissimo, bello nella versione doppia quando era in vinile, bello nella versione doppia deluxe quando è stato ristampato, sì, tante cose, bello, bello. Ma lo amo soprattutto nel suo concetto di rottura, nel senso che i Clash, che comunque sono un'icona punk, con quel disco hanno fatto un disco altro rispetto a quello che avrebbero potuto Michele fare. Michele ci ha dato. Non importa, basta quella, va bene lo stesso, i Clash, benissimo. Quindi questo è un altro disco. E ultimo, ma non ultimo, anzi forse il mio disco preferito di tutti i tempi, ne abbiamo parlato prima, è sicuramente Velvet Underground e Nico. Esatto, quello abbiamo parlato, abbiamo riparlato, sì, ma si può parlare sempre. Disco incredibile, se potessi portarne 6 mi porterei anche Transformer di Lou Reed, okay. Che è l'altro lato di... è un po' l'altro lato dello stesso del concetto che diceva prima Andrea di creare quello che sarà poi la musica alternativa. Dobbiamo ricordare una cosa, che Transformer è stato prodotto da David Bowie, è stato lui che l'ha ritrovato, l'ha proprio preso per i capelli e poi l'ha risuscitato musicalmente. Assolutamente, però c'è questo candore malato, sì, di Lou Reed in quel disco che è... io quando sento Perfect Day mi viene a pelle d'oca, certo. Tra l'altro ho avuto la fortuna di sentirla interpretata da Patti Smith in una chiesa 3 anni fa e non mi vergogno a dire che mi sono messo a piangere. Ah, ci credo. Patti ci Smith credo. In trio a fare sta cosa, ho pianto. Ci credo. Bene, chi tocca adesso? Beh, a proposito di Elena. Bowie, io sicuramente... allora, sicuramente Ziggy Stardust me lo porterei. Assolutamente. Ecco. Poi volevo chiedere se c'era il lettore CD o la piastra per leggere i dischi sull'isola deserta. Come vuoi te. Okay. O le cassette, non lo so. C'è Bowie, c'è, okay. Sei Ziggy Stardust, okay. Questo è importante. Quello ce lo portiamo. Quello è bellissimo. E poi sicuramente Patti Smith, che cosa io adoro. Di Patti Smith io porterei Easter. Ah, bello. Because the Night. Sì, o porterei anche Ursis. Ah, quello che vuoi. Patti va bene tutto. Ma guarda, sì. Va bene, sì, tutto, sì. Va bene tutto. Anche robe recenti, credo, non so. Che sceglierei tipo l'ultimo minuto questo e mi prendo su ecco occhi, perché eccola che ricordiamo, eccola. Questo non è stato un pezzo scritto da Springsteen, no, è stato un pezzo scritto da Springsteen e Patti Smith assieme, certo. Quello, tutti pensi, no, non è così, è così la mia storia, è quella. Certo, tutti e due l'hanno scritto, se no era un pezzo di Springsteen, esatto, basta, era di no, Patti Smith e Springsteen. Ok, bene. Poi continuando, cosa che ci possiamo portare? Sister Lovers dei Big Star. Bene, come mai Big Star, al di là della morte di Alice? Sì, no, al di là di questo, è un disco che a me piace moltissimo. E mi piace molto, mi mette, nonostante il disco in sé non sia così allegro, nel senso che... No, è un grande disco. Però è un disco che ascolto, ho ascoltato migliaia di volte, di seguito, anche sono quei dischi che uno non si stanca mai di ascoltare. E quando dice ma voglio ascoltare qualcosa, e la mano va proprio diretta nella... sono quei dischi che proprio uno non dice buon, ok, certo, cioè è sempre lì, insomma, sono d'accordo con te. Alex Sito era un musicista straordinario, bravissimo, ecco, sì, indipendentemente dalla sua scomparsa, da tutto, però cioè, l'avrei era portato bravo, anche prima di certo, questo, certo. Sicuramente. Un altro disco che porterei, ma non porto perché l'avevo già parlato l'altra volta e me lo ricordavo, era quello dei Love, quindi non l'ho messo. Quale dei Love? Friend Change? Sì, chiaro. Bello, che anche quello è un altro di quelli bello, che mi ascolto bellissimo, sempre. Bellissimo, bellissimo. Un disco che non dice, basta ascoltare sta roba. Non dà fastidio. No, ma è energico, diciamo, è bello, che bello, mi dà sempre, sempre quella carica proprio, sì. Incredibile. Lo sostituisco con cosa allora? Come? Lo sostituisco con... Io stavo pensando questa, poi io ho veramente un problema a ricordarmi i titoli dei dischi, che faccio abbastanza casino. Io vorrei portarmi qualcosa di Nina Simone, perché amo molto... Benissimo. L'amo molto. E prima stavo pensando che quando ci hai detto che ci sarebbe stato questo gioco, ho detto mi posso registrare tipo, non so, una decina di volte Sinnerman su un disco e portarmi quella. Ascolto, credo sia l'interpretazione più grandiosa questo pezzo qua. Ecco, mi succede la cosa che succede a Blodio quando ascolto questo pezzo, mi viene proprio la pelle d'oca alta un centimetro, per cui... Ecco Nina Simone, farei fatica a scegliere, nel senso che c'è proprio una cosa incredibile. E poi non mi ricordo più, ho pensato a qualcos'altro, ce ne sono troppi. Beh, uno a caso, dai. Uno a caso. Scelta. Uno a scelta potrebbe... Ah, sì, certo, ecco cos'era, Nick Cave, non posso portare Nick Quale Cave. Quale di Nick Cave? Porterei il disco, di cui non ricordo il titolo, appunto, per la mia amnesia momentanea verso i titoli, quello di cover. Ah, sì. Quello capito, che comunque mi piace molto, nel senso che mi piace molto il Nick Cave. Ha trovato Nina Simone. Nina Simone, grazie. Bravissimo, Michele, bravissimo. Prontissimo, soprattutto. Perché a me, vabbè, Nick Cave mi piace chiaramente moltissimo anche la sua. Ti piace quello elettrico o non quello elettrico? No, mi piacciono entrambe le cose. Mi piace anche molto il Nick Cave, sì. Quello più intimista, tutta questa parte. E in realtà anche quel disco di cover mi piaceva molto. Cioè, certo. Anche quello è un disco che ho ascoltato e che mi... Ecco, è forse uno dei dischi che ho meno ascoltato. E quindi perché no? Certo, a me piace molto il Murder Ballad. Anche l'ho ascoltato talmente tanto. Io quello l'ho sentito tante volte. Poi sai, su un'isola deserta. Cioè ti viene un po' faticoso. Benissimo, abbiamo concluso con te. Adesso passiamo al nostro grande batterista. Allora, attenzione che... lui è metal, sì, lo so. Allora, invece potrei sorprenderti. Bene, mi fa piacere questo. Allora, io diciamo partirei con un gruppo italiano, anzi bresciano, che sono i Timoria. Mi porterei ovviamente Viaggio senza vento. Bellissimo. Ero indeciso tra quello e tra il Topo Grand Hotel, che diciamo, secondo me, per come l'interpreto, è Viaggio senza vento numero 2. A me piaceva più Topo Grand Hotel. È molto bello. Manca Renga, però è molto bello. Lo so, manca Renga, è vero. Però diciamo che porterei Viaggio senza vento perché. Ecco i Timoria. Eccolo. Bravissimo, Michele. Poi mi porterei Ten Summoner's Tales di Sting. Come mai Sting? Da perché solista? Mi è sempre piaciuto coi Police, ma forse l'ho preferito quasi quando ho cominciato a fare il solista. Ho capito. Specialmente i primi 3-4 dischi. Poi si è un po' perso, esatto. Un po' si è buttato sul folk, sulla musica un po' particolare. Non è mica brutto il disco nuovo. Quello di Natale. Non rientra diciamo nei miei canoni. Bene. Ecco. Poi mi porterei un disco dei Dead Kennedys. Ecco, Sting ovvero... sottofondo. Fantastico. Quello non ce l'hai mica, però, i Dead Kennedys. sì, anche quello. Mi porterei un po' difficile. Fresh Fruits for Rotting Vegetables dei Dead Kennedys, che è un grandissimo disco, secondo me. Vero, sono d'accordo. Se la portava in quel genere la particolare, decisamente sono d'accordo. Sì. Poi mi porterei Revolver dei Beatles. Ragazzi, quello è padre di tanti dischi messi assieme. Devo aprire... Quelli dopo, tanti. Allora, devo aprire una piccola parentesi. Io mi sono convertito ai Beatles da pochissimo tempo, da un anno circa. Perché io non li ho mai potuti vedere. Ah, come mai? Perché non mi piacevano. Diciamo che ero un po' prevenuto. Ecco. Ah. Avevo sentito tutti i pezzi, i grandi classici, e non avevo mai ascoltato tutti gli altri. Che diciamo. Ce ne sono tanti che non sono i grandi classici. E sono arrivato a avere un altro gruppo che è un tributo ai Beatles. Ah, però. Anzi, volevo salutare Franzi Omi. Quindi fai un gruppo con tributo ai Beatles. Sì. E che pezzi fate? Così, facciamo tutti curiosità. I pezzi da Revolver in poi. Ah, ok, ho capito. Vabbè. Benissimo. Ultimo disco che mi porterei. Ecco, bravo Michele. Ultimo disco che mi porterei potrebbe essere The Bleeding dei Cannibal Corpse. Quello è un disco particolare, decisamente particolare. È l'ultimo dove ha cantato Chris Barnes, sì. E poi è andato a formare Six Feet Under. Esattamente. Bene, ok, tocca a te Andrea. Tocca a me. Allora, 5 sono pochissimi. Sì, lo so che sono pochissimi. Tipo, se mi fai la stessa domanda, fra 6 ore la risposta è diversa. Però cercando di sintetizzare. Allora, un disco che sicuramente porterei sempre è Team dei Replacements. Ecco, quello molti non lo conoscono e io invece bisogna conoscerlo. Perché è un grande disco quello. Un disco importante. Molto importante. non si può dire molto importante, ma lo dico lo stesso. E c'è anche, ci sono dei pezzi molto significativi anche del suonare musica di un certo tipo, sì, che non ha appeal per le masse, come Left of the Dial, che è poi diventata una frase standard per tutte le band alternative americane, perché Left of the Dial significa a sinistra del quadrante. Certo. Quando si gira per gli Stati Uniti, quello che sta a sinistra del quadrante sono le radio locali che trasmettono musica alternativa e diversa. Quindi racconta di loro che vanno in giro sull'autobus e cercano i brani, e quando li perdono basta che vanno ancora un po' a sinistra e poi lì ritrovano la stessa cosa. È vero. E oltre a quello ci sono dei pezzi molto, molto belli che comunque mi hanno segnato. È un grande gruppo di placement, sì. C'è poco da fare. Anche dal punto di vista emotivo credo sia una delle cose che mi prende di più. Così come mi prende tantissimo Under the Big Black Sun degli X, che è il terzo disco degli X. Sì, ho capito. Di John Doe e Xen Cervenka. Sì. Esatto. Un altro musicista molto particolare, John Doe, anche la stessa Spencer, cioè la ragazza, la leader, la co-leader della band, sì, che adesso ha fatto un disco molto difficile, molto strano, molto particolare. Sì, molto difficile, molto strano, anche perché le è stata diagnosticata la sclerosi multipla. È vero, sì, purtroppo. Sì. Di recente, purtroppo. Certo. E non so, c'è anche un fondo per aiutare i musicisti colpiti da questo male, che è particolarmente invalidante, soprattutto per chi deve suonare. Okay. E non so se uno proprio vuole buttare via un euro, di solito magari se fa una cerca nel sito, una ricerchina, insomma. Certo. Un musicista, quindi, colpito dalla sclerosi multipla non è una cosa da poco. No, assolutamente. E gli ex sicuramente, però la capacità di raccontare storie e di fare punk rock che raccontasse delle storie con dei testi sempre molto molto molto belli, a mio avviso, e profondi, e mai banali, mai scontati. No, assolutamente no. Il terzo disco che porterei in questo momento credo Space Ritual degli Hawkwind. Non c'entra un accidente. Come mai io, quindi torniamo a un po' di non posso chiamarlo progress, non posso neppure chiamarlo. È un po' di space rock. Ecco, space rock. Come mai space io, rock. Quindi con delle copertine meravigliose. E questi brani dilatati. Alcune. Vabbè, la copertina di Space Ritual, ad esempio, è molto, bella, molto bella. Bella. Ma è questo genere che è uno dei... Poi ibrido, non so cosa mi definire. È ibrido, è molto particolare, sono una band unica, sì, comunque. È molto semplice in realtà, apparentemente. In realtà poi fare quelle cose lì, avendo credibilità, non è poi così semplice, perché si fa un po' la figura dei fessi subito. Sì. E invece loro con questi sintetizzatori che fanno sempre wush, questi testi che parlano di andare nello spazio, sembra una cosa un po' ingenua. In realtà rappresentano probabilmente un desiderio di evasione. È uno dei pochi gruppi che riesce a farmi staccare proprio dalla realtà delle cose. Dal quotidiano. Fin da quando facevo il liceo, quindi si parla di... Un po' di tempo fa. Non tantissimo, Non tantissimo. Un po' di tempo fa. Ahimè, un po' di tempo fa. Non così tanto. Tu sei giovane. Sono giovanissimo. Rispetto al sottoscritto, molto giovane. Però lo so, Michele... niente, rispetto al sottoscritto ho detto, mica rispetto a te. E sono uno dei pochi gruppi che ha questa capacità di farmi distaccare, insomma, dalla realtà, e con dei pezzi secondo me molto interessanti, questi riff monolitici che sono importanti anche per un genere come lo stoner rock, queste cose. Allora, proseguendo un po' velocemente perché non voglio tediare troppo, sicuramente Fun House degli Stooges. Come mai gli studi, questo gruppo spaccava tutto nel senso positivo, sì, del termine, che sia durissimo. Devastazione applicata al rock and roll, devastazione su se stessi. Ma applicata al rock hip-hop, and roll. Allora? Cavolo, hip hop. Perché hip hop? Perché hip hop è veramente uno tosto. È ancora vivo e vegeto, cioè suona ancora. Come ha fatto? Molti visto si chiedono come ha fatto. Quando ha preso la nomination al Rock and Roll Fame, come ha accolto la cosa quando è salito sul palco? Non so se l'avete visto, se non lo diciamo adesso, no. Però se qualcuno vuole vedere, insomma, sui vari siti si trovano le immagini. Per cui uno arrivato a una certa età diventa sempre piuttosto autocelebrativo. Mick Jagger è stato il primo esempio di autocelebrazione. Lui già a 40 anni era molto autocelebrativo. Sì, decisamente. E tanti altri lo sono e si mettono un po' in discussione. Iggy Pop è veramente, non so, il messia, senza voler essere... voler usare dei termini sbagliati, però del punk in un certo senso, perché mantiene l'attitudine giusta sempre. E non sbaglia mai i colpi. Anche l'ultimo disco che ha fatto, che totalmente non è totalmente diverso. Assolutamente discutibile finché si vuole, ma c'è una sincerità di fondo, una sincerità espressiva che almeno io, forse perché a me piace, riesco a cogliere, quindi mi piace lo stesso. Lui sta invecchiando, si è avvicinato a una certa età, ha capito che un disco del genere non l'ha mai fatto, non avrebbe mai più potuto farlo probabilmente. Poi sta vedendo che insomma non gli restano tantissimi, non è giovanissimo, ma non è neanche... No, è vecchissimo, anche se sembra, non è così, non è così. Credo che sia però la citazione della propria mortalità. Sì, sono d'accordo, è un disco particolare, disco che nessuno sarebbe aspettato dai hip hop, questo è chiaro. Sì, e per chiudere, chiudiamo con una cosa ancora diversa, John Martin. Ah, peccato se n'è andato anche peccato quello. Se n'è andato, sono riuscito fortunatamente a vederlo dal vivo. Ah, bene. Qualche anno beato fa, prima che se ne andasse, e anche se non riusciva praticamente più a suonare la chitarra perché aveva dei problemi, la voce era ancora nitida come una volta. In epoca che riesce a commuovermi, certo. Veramente... E quindi Solid Air o Inside Out, ecco, possiamo citarli tutti e due, sono tutti due. Anche dei se Bless the Weather ha un paio di pezzi che mi fanno piangere ogni volta che li sento. Sono d'accordo, però Solid Air, sono due album, non so come definirli, bellissimi, folk, sono, jazz che si incontrano, tutto, improvvisazione. A quell'epoca cantato, era difficile fare quel genere là. Passa dal falsetto, sì. Un canto molto aspro, indescrivibile da ascoltare proprio. Per chi volesse comprarli sono tutti in linea economica, quindi sì, i primi di John Martin. Quindi pochissimo. Esattamente, quindi si potrebbero... Cioè, se uno ha un buco nella sua discografia, vale la pena, secondo sì, me. Sì, assolutamente. È un genio. Si può essere favorevolmente colpiti in qualunque momento della vita da uno dei dischi di John Martin. Ah, sicuramente. Noi invece siamo favorevolmente colpiti dalla musica dei Van Cleef. Suoniamo ragazzi, okay, suoniamo. Abbiamo tempo fino a mezzanotte. Suoniamo. Cosa suoniamo adesso? Ma direi che suoniamo Dry Queens. Perfetto, la versione vostra. La versione acustica. Acustica rispetto alla versione dell'album. Acustica rispetto alla versione dell'album. Rock Wave, l'onda del rock. Sonic boom, boom, boom. room around sunrise. When time is up, you know you're losing style. Try and quit, 'cause you look so fine. The things you like, I know you'll be somewhere looking for me. So come on, be real. So open up your ears. You think you found the sweetest sound. You think the sweetest sound. Think you found the sweetest sound. Blue Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blue Radio. Rock Wave. L'onda del rock. E ho letto che questo pezzo, prima l'abbiamo citato, però abbiamo citato lo studio di registrazione, era stato inciso tempo fa nello studio di Ronnie di Costa Volpino. Dov'è questo posto, Costa Volpino? Sì, era stato inciso, la versione precedente era stata incisa, sì. Costa Volpino. Costa Volpino è al confine tra la provincia di Brescia e quella di Bergamo. Ok, c'era uno studio di registrazione là. Sì, c'era uno studio di registrazione. Tu suonavi tutto là, meno che la batteria. Meno che la batteria, esatto. Sì, che non sono proprio capace. Non sei capace, no. A meno che sia finta sintetica, che la suona sulla tastiera, sennò... cioè elettronica, cosa... presunta tale. Sì, sì, no, sono veramente... Non hai mai provato a sostituire lui? Fortunatamente no. Bene. E l'avete, a proposito di questo in pezzo, realtà non lo fa perché è bravissimo, sennò dopo io prendi il posto male, praticamente, esatto, sì, sì. Okay. Magari. E a proposito di questo pezzo, come l'avete eseguito in questo momento qua? Una bella... un bel muro di lisergico mai fatto. Adesso puoi rifare questo muro di lisergico che hai fatto in questo momento, cioè qualche secondo fa, bello proprio. Bello, a me è piaciuto molto, e a me piaceva anche poi in qualche momento tac, ci inserivi. Beh, te con quel piccolo abbellimento, esatto, che può anche sconvolgere addirittura nel senso positivo, cioè la linea del pezzo. Benissimo, quindi una versione, questa è la versione che fate adesso, avete fatto in questo momento, dal vivo la fate così o la ampliate sempre di più? No, è un po' diversa dal vivo, un pochino più rock, un po', sì. Più energica. Un po' più energica, c'è ovviamente il basso, aumentate gli amplificatori a tutto volume, sì. Io ho l'organo oltre al pianoforte, che uso prevalentemente, uso solo l'organo in questo pezzo, quindi non c'è questa parte... La pianola praticamente? Qua. No, non c'è la pianola non esiste. La pianola nel senso, scusami, la pianola non esiste. Io ho una guerra privata nei confronti della pianola. Come mai è una pianola privata? Perché la pianola è quella lì grande così, con sopra i fiorellini. Mi sono espresso male, non era la pianola. No, non sto scherzando. Mi sono espresso male. Non sai perché mi viene in mente la pianola? Mi sono venuti in mente i Toys Orchestra, che sono gli strumenti sì, giocattolo. Sì, certo. Quella è una pianola, quella ha diritto di essere chiamata tale. No, niente, sto è una tastiera. È un organo proprio, un Korg, è un clone dell'Hammond che usavano anche i Doors, del 79. E cosa c'avete dei Doors voi? Che cosa ci abbiamo? Cosa nell'aereo così? Qualche punto di riferimento piccolissimo, lontanissimo. La gradazione alcolica. Ecco, quella sì. I capelli di Ray Manzara. No, a parte gli occhiali. Ecco, esatto. No, non c'è musica dei Doors da voi sicuramente, però la musica è un po' diversa. La musica è vostra al 100%. Poi i riferimenti, i contatti, i punti così ci sono, si sviluppano. Certe cose, soprattutto se parli di Doors, oppure se parli anche, non nel nostro caso, ma di Led Zeppelin, ad esempio. Sì. Cioè, comunque sono cose che ti vengono fuori, anche se se forse non sono le tue influenze dirette. Sono d'accordo con te, sì. Poi magari sui Doors si può anche aprire una parentesi. Possiamo aprire potrebbero una anche essere un'influenza... Non diretta, diciamo, di questa età, ma un'influenza adolescenziale, un motivo adolescenziale. Beh, fortissima, sì, assolutamente. Chiaramente i Doors hanno lasciato il segno su certe cose, molte cose. Anche, anche del... sul nostro percussionista hanno lasciato il segno. Perfetto. Ora non c'è. Ha tatuato. Che non nel senso che si è tatuato la data di nascita e di morte di Jim Morrison. Una di qua, l'altra di qua. Nonché una sua frase sulla gamba. Ah certo, sai il serpente, sì, è vero. Sì. Ecco, forse lui è il fan dei Doors per eccellenza del nostro gruppo. Del nostro gruppo. E per fortuna che sono le percussioni e non qualche strumento. C'è anche un'attitudine all'improvvisazione, ecco, comunque, quello importante. Dei Doors, che di sicuro fa parte di Van Cleef Continental. Cioè, improvvisate se potete, chiaramente. Ma nei live ci piace lasciarci andare, ci piace partire per la tangente, per qualche mondo, e creare quell'atmosfera che può essere magari anche straniante. Ho capito. Come dicevi prima del piano su... Sì, sì, il piano suo mi dà una sensazione piacevole. Ha stoppato, non era la batteria, ma ha stoppato il piano stavolta. Solito si dice stop and go, ma l'hai fatto te praticamente. Sì, sì, sì. Ci piace comunque muoverci sia sul tempo, quindi ritmicamente, che armonicamente, spostando l'attenzione, spostando anche la tensione, quindi l'umore che un pezzo può generare. Certo, e certo. Questo è molto figlio dei Doors, di sicuro. Beh, chiaramente. Dunque, 23, 29, 43 secondi, diretta a rockway.altervista.org, ci potete sentire e vedere, ma io voglio sentire ancora musica. Cosa ci fate sentire adesso? Cosa vi facciamo sentire? Attenzione. Prendiamo la chitarra, tutto dal vivo, ci si sposta la chitarra, dal vivo. Ci hai colto impreparati. No, ma sai, Rockway coglie sempre impreparati, soprattutto quello che lo conduce, fa sempre la impreparazione degli altri. Ok, questa è Fire in My Bones, che avete già sentito nella versione punk. E adesso sentiamo che versione Una versione diversa. Rock Wave, l'onda del rock. Fire and kill the moonbeams ahead, the way they shine. Scream and scream so you'll feel the night. I hear the way they smile. They will show me the direction you see my reflection when someone is giving me the eye. And the stage is too high, my mouth run dry. Every motion is a narrowing light. We're all right, I'm now. Are you all right? We're all right, yeah. I said, roll away, take me home. I got fire in my bones. Fire in my bones. Because you lack some speed in the furnace of greed. Is it me your eyes are out for? You're drawing my blueprint to build me a new skin. I feel your great concern. You're down to torpedoes, but I return us. This is not a summer of love, because we all were born in the middle of nowhere. I guess it's something you forgot. And the stage is too high, my mouth will run dry. Every small turn is a narrowing life. And my ears are gonna ring, my eyes they cannot see. Oh no, it's coming down on me. Are you alright? Well, alright. Well, I'm down. Are you alright? Well, alright. So what? Are you alright? Well, alright. alright? When I'm not, are you alright? Well, alright, motherfuckers. Sail the road away, take me home, fire in my bones. Roll away, take me home, I got fire in my bones. Blue Radio. Blue Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Eh sì, la versione punk era spadita, il punk è spadito, anche se, beh, non so cosa dire, molta lenta, cadenzata, il punk è lasciato da una parte, l'avete trasformata, bella, a me è piaciuta. Se ti è piaciuta, va bene. Va bene, siamo contenti. Sì. No, sì, l'avete trasformata, l'avete ricostruita, non è semplice, però è bello secondo me. Il discorso che si faceva prima, no? Esatto. Questa cosa qua. E del resto, tra i locali che ci sono dove si può andare a suonare, ci sono anche locali dove l'esigenza è anche... Noi chiaramente preferiamo sempre andare a suonare ormai adesso, soprattutto in questi ultimi 2 anni sicuramente, sì, di fare l'elettrico, quindi certo, tutti 4-5, quando siamo tutti chiaramente scatenati. È la cosa che ci piace di più. Abbiamo suonato molto in acustico prima e ogni tanto lo facciamo ancora, e quando lo si fa gli arrangiamenti sono di questo, sono livello, d'obbligo comunque, certo, se no non si può andare a fare una cosa un po' più soft e basta, ecco. Certo, non abbiamo ancora ricordato, è stata mia mancanza, il titolo dell'album. L'album è Red Sisters, ecco, esattamente. È distribuito da Audioglobe, quindi bene, si trova dappertutto, richiesta nei negozi, certo. È disponibile anche su iTunes, su diversi portali. Si può trovare, c'è il nostro sito come riferimento. Citiamo il vostro sito: www.vancleefcontinental.com. Van Cleef Continental è scritto Van Cleef Continental. Esatto. Continental, esatto. .com. Sì. Si trovano un po' di informazioni. E cosa si trova? Cioè, le recensioni, eccetera. Le date, me le dite le date? Le date. Allora, noi siamo appena stati a San Benedetto del Toronto ieri in un bellissimo posto che si chiama Pao. Avete suonato ieri sera là? Lo citiamo, sì, perché ci hanno ospitato un'ospitalità deliziosa. Bene. Anche nei termini proprio mangerecci. Bene, benissimo. Nonché umani. Nonché umani. No, nonché umani, chiaro. E stasera siamo qui, che è sempre molto bello. Non è mangereccio, no, però questa sera. Non è mangereccio, però è bello, perché adesso non perché siamo qui, altrimenti starei zitto, però venire qui a fare un'intervista è sempre piacevole, nel senso che l'opportunità di parlare per 2 ore, di trovare qualcuno che ha ascoltato il disco davvero e che ci tiene, insomma, a parlare con te, perché altrimenti se non abbiamo niente da dirci, perché dobbiamo parlare, no? Questo è vero, cioè, per quale motivo dobbiamo stare qui a parlare? Invece, se uno si ascolta il disco, vuol dire che gli è piaciuto. Se non gli è piaciuto, magari mi dice perché non gli è piaciuto e ne parliamo, però abbiamo qualcosa di cui parlare, e stare qui 2 ore e avere qualcosa di cui parlare è una cosa importante. Perché l'inferno è già arrivato, cioè nel mondo ci sono piccoli angoli di sollievo e bisogna dargli spazi e cercare di convivere con l'inferno che ci circonda. Ampliarli questi angoli. Sì, ampliare il più possibile. Chiaro. Questo è un luogo, un posto in cui è possibile farlo e noi ne siamo molto grati. E prossimamente saremo sul Lago d'Iseo il 25 aprile. Festeggeremo la liberazione con un concerto acustico sul Lago d'Iseo. Anche un bel posto, a proposito degli acustici, bisogna, esattamente. Domenica. Mentre invece faremo un concerto elettrico il 30 di aprile a Brescia, alla Latteria Molloy, dove festeggeremo il compleanno del locale. Ci saranno varie attrattive nel corso della serata. Sarà, speriamo, una serata molto divertente e frequentata. E l'8 maggio saremo invece sempre a Brescia ad aprire il concerto dei Dead Meadows. Ah, ho capito. E condivideremo la serata con loro e sarà piacevole, insomma, anche quello. Quindi le prossime date sono queste qui. Queste qua. Quindi avete sicuramente qualcosa da fare nei prossimi giorni. Sì, beh, qualcosa da fare ce l'abbiamo sempre. Bene, sì, questo sì, è positivo, molto positivo. Benissimo, sono le 23:38. Io penso che in scaletta ci fosse ancora un altro pezzo da disco, mi pare. Sì. Sì. In Red Room. In Red Room, sì. Mettiamo su, cosa dite? Catherine. No. Sì. Catherine. Sì, scusatemi. Catherine. Ok, Catherine. La numero 6. La numero 6, benissimo. Esatto. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, parlando di questo pezzo, l'ho sentito ieri sera a una certa ora, Michele lo sa, verso le 4 di mattina, perché i pezzi a una certa ora si sentono meglio. Vero, c'è poco da fare. Questo specialmente. No, Michele, io rifiuto, non ho mai fumato in vita mia. Quello è un'altra par di maniche. Dunque, sì, lo trovo molto complesso nel senso positivo del termine. Perché secondo voi? Io l'ho sentito così, pieno di complesso. Riferimenti. Complesso nel senso positivo, sì, pieno di riferimenti, di evoluzioni, poi si fermano, però ritornano al seminato, eccetera. Cosa dici? È stato anche è la stessa cosa che ho provato quando ho mixato insieme a Michele Coratella, che ha lavorato sul disco, questo pezzo. Mm. Tant'è che per far uscire le varie anime, il pianoforte, certo, la chitarra e questi mezzi soli di chitarra e di pianoforte, sono stati fatti un sacco di sperimentazioni per arrivare alla forma che adesso il pezzo. Che in più diciamo, svegliamo che dal vivo e in origine era comunque molto più lungo della versione che c'è su disco. Ah, ho capito. Solo che sempre ascoltando i provini delle registrazioni, il cantato aveva una forza evocativa tale per cui abbiamo voluto dargli il suo peso all'interno del pezzo. Quindi abbiamo tagliato un po' di strumentali, dando questo forte peso al cantato e dando poi il peso forte allo strumentale nella coda finale. Nella coda finale, cioè una specie di jam session tra virgolette piccolina. Sì, tra l'altro assolutamente improvvisata, cioè tutta la parte strumentale di questo pezzo sono assolutamente improvvisate. Questo è proprio l'emblema dell'improvvisazione, secondo me, nel disco. Proprio, dà proprio la sensazione, se uno la sente bene, come mi sono permesso di sentirlo ieri sera, non solo ieri sera, altre volte, però ieri sera particolarmente, c'era questa, proprio questa anima di improvvisazione. Chiaramente tu lo poi l'hai gestito in una certa maniera, perché l'hai prodotto, ed è stato difficile produrre un pezzo che cercava sempre di fuoriuscire dai canoni. Sì, ma è anche bello che un pezzo ti stupisca, cioè tu lo registri, lo suoni, poi più lo suoni più ti convince com'è. Quindi nel momento in cui dici è già bello, però se faccio qualcos'altro forse è ancora più bello, quando quadri quella cosa è magico. Mi ricordo che presi questo file e lo tagliai proprio il file e lo ricomposi con un programma stupidissimo nel computer di casa, e sentendolo così con la vocalità di Andrea che adoro, sì, assolutamente in questo pezzo, con le due voci, che mm-hmm, come si muovono le due voci quando il pezzo esplode, ho proprio visto un cerchio che si chiudeva. E poi c'era il gioco tra la chitarra, l'elettrica, il piano, cioè la tastiera. E nel finale, che poi il piano, in origine c'era proprio un incrocio tra chitarra e pianoforte, solo che avremmo dovuto studiare esattamente le frasi di chitarra e pianoforte per non farle mai cozzare. Ah, ho capito. E questo era un po' contro il concetto stesso di pezzo, che è un concetto che è libero, perché questo è sempre un pezzo libero nei nostri concerti, è anche nato come pezzo libero. E quindi abbiamo tolto la chitarra nell'inizio e l'ultimo solo per far uscire sul pianoforte, anche qui i Doors, i Fantasmi di Morrison che aleggiano, e poi invece che entra la chitarra in un finale che è un po' più sostenuto, un po' più sonico. Si vede che sei il produttore del pezzo, hai dato una descrizione perfetta, momenti dopo momenti, per si capire. Si vede che ci ha lavorato. Esatto, sì, ci ha lavorato molto, con molta passione, per capire veramente perché è così. E quello a me è importante, io l'ho sentito, ho avuto delle sensazioni, però adesso tu me le hai spiegate e ho capito meglio, secondo me, com'è il discorso. Comunque, ecco una cosa... Come diceva Andrea, è veramente bello parlare con una persona che ha ascoltato il disco in questo modo, cioè l'ha ascoltato. Sì, io l'ho ascoltato due o tre volte, anche perché certi pezzi entrano con difficoltà, devi sentirle, e ora si sentono la prima volta, si sentono la seconda volta, si sentono alle 4 di mattina, sì, però sì, danno una sensazione. Questo era un pezzo che aveva tante cose, adesso me le hai spiegate e adesso le ho capite. Ma sicuramente questo pezzo va ascoltato 2, 3, 4, 5 sono volte, d'accordo con te. Prima di darle le vibrazioni che entrino tutte, bisogna... Esatto, tu hai ragione. Queste sono proprio le vibrazioni, anche perché si parla di vibrazioni, in questa maniera si sentono proprio le vibrazioni, chiaramente, però io le sentite. Beh, il segreto della musica è proprio il fatto che fa vibrare, secondo me, chiaro, tutto il corpo. 23:48. Salutiamo, sì, salutiamo Miria di Mantova. Certo. Sì, sì, sì, ciao Miria. La invitiamo anche a prendere contatto con i nostri social network, su Facebook, la Van Cleef Army, il nostro gruppo di Facebook, oppure su MySpace, oppure via mail. Comunque grazie della partecipazione. La partecipazione e del supporto. Ok, suoniamo adesso 23:49 quasi, cosa suoniamo? Facciamo una cover, visto che abbiamo fatto solo pezzi nostri, facciamo una cover, un pezzo degli anni 60. Di chi? Dei Sonics. Ah, benissimo. Si chiama Strict Nine. Perfetto. Rock Wave, Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Some out of force like wine. High on the light of chase, out of straight strychnine. You will say I'm weak, but I understood. But the ones you try, you know you can't get enough. Like wine, I only light and cheers on a straight string nine. Wine is rare, wood is good, string nine's the best for what's been made in a year. Like wine, I only like the taste of the straight nine. You may say I'm worth when I like the stuff, but once you try them, baby, you know you can't, you can't, you can't, you can't, you can't get enough, get enough. Got enough. You can't get enough. Blu. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ladies and gentlemen, Van Cleef Continental! Erano anni che non si vedevano da questo pezzo. Bellissimo, era un sacco di tempo che non sentivo questo pezzo, ma... lo so, Michele, ma era tanti anni che non sentivo questo pezzo, e mi è piaciuto tanto, mi ricordava certe cose di un tempo fa. Bella versione, bella, pimpante, bella, fatta bene. Un pezzo che facciamo spesso dal vivo. Si vede che... sono le influenze del... il garage rock. Sì, sono... ma bello, cioè era bello già all'epoca questo pezzo, ma l'avete... Sì, un pezzo molto bello, con un testo strampalato tra l'altro, per gli anni 60. Però è una melodia, possiamo dire una melodia tra virgolette, ti fa muovere. Una cosa divertente è che a molti concerti c'è la gente che non conosce i Sonics che pensa che sia un nostro pezzo. Ah, però. Dice, bella quella là, ci piace tantissimo. Io la suono con un gruppo garage, anche con l'organo, e quando faccio Strike 9... mi dicono, ah, ma hai fatto anche la cover dei Van Cleef. Me l'ha detto più di una volta, è ma l'avete fatta, ripeto, io l'ho sentita adesso, in questo momento, la conoscevo chiaramente la versione originale, ma l'avete fatta benissimo. Non è, cioè, non è conosciutissima, almeno quelli della mia età sì la conoscono, però... Vabbè, anche noi. Anche voi, esattamente. Però, bello. I Sonics dovrebbero essere una dottrina, soprattutto per chi... adesso, perché è giovane, sì. Per questi ragazzi che fanno l'indie dovrebbero conoscerli assolutamente, dovrebbero essere l'ABC, che sono quelli che hanno inventato, forse no, però sono stati degli alfieri di un suono. Anche prima degli Stooges, tra l'altro, sì. Loro c'erano. E poi negli anni 60 un testo come che dice: a qualcuno piace il miele, a qualcuno piace il vino, a me piace solo la stricnina. Già. La stricnina fa ridere, è ovvio che è divertente, perché fa ridere, perché la stricnina è un veleno. Certo. Non è che sia una droga, quindi non è una roba provocante, è solamente una roba proprio divertente, fa ridere, però ha un che di destabilizzante in qualche maniera. Decisamente. Bello, bello, veramente bello. 23:55, abbiamo quasi finito. Siamo quasi agli sgocci di questa bella cavalcata che è durata 2 ore. Dalle 2, dalle 10 e 10, quindi verso mezzanotte, sì, 2 ore di musica vostra. Praticamente musica totalmente vostra, scusa la cover di adesso. Sì, cover, sì. Sì. Sì, sì, sì. È molto bello però suonare così, con tutto questo spazio per poter farne un pezzo, due, tre massimo, poi basta. No, riuscire a suonare non tanto, c'è, non c'è preclusione, veramente... si va avanti. Sì, sì, sì, sì, finché sì. La forza dei musicisti quando la forza dei musicisti c'è, si va avanti, poi chiaramente, però no, quello è bello, quindi, ce la possiamo ancora fare, sì, sicuramente dobbiamo terminare in una certa ora, quello che è forza. Tra poco, tra l'altro, tra poco, però questo non vuol dire assolutamente niente. Riepiloghiamo certe cose. Come si intitola l'album? Allora, l'album si intitola Red Sisters, si può trovare, è distribuito da Audioglobe, quindi basta cercarlo, nel senso che non è ovviamente in tutti i negozi si trova esposto, ma basta chiederlo e cercarlo a Audioglobe come distributore. Casa Molloy è l'etichetta per cui è uscita. Ultima cosa, se vuoi ricordare un'altra volta le date di aprile, visto che ci siamo. Ok, allora, oltre a ieri sera e stasera, siamo il 25 aprile a Pisogne, sul Lago d'Iseo, il 30 aprile a Brescia alla Latteria Molloy, e l'8 maggio sempre a Brescia in compagnia di Dead Meadows, un gruppo americano, al Vinile 45 a Brescia. Benissimo. Ricordiamo anche i contatti, certo. Sito, eccetera. Dunque, il sito è www.vancleefcontinental, tutto attaccato, ovviamente.com. Il Facebook è Van Cleef Army, si trova il gruppo proprio di Facebook, e su MySpace è www.myspace.com/Van Cleef Continental, trovate tutto, comunque sul sito ci sono tutte le informazioni per raggiungerci. Benissimo, quindi grazie Van Cleef Continental, l'accento lo mettiamo come vogliamo noi. Sì. Grazie al mitico Michele Tosoni in regia, grazie, a tutto il nostro staff. Grazie allo staff. La prossima settimana grazie abbiamo un gruppo di Roma, Michele, New Disorder, che Agostino ha recepito e porterà lui qui. E adesso concludiamo chiaramente in bellezza con un altro pezzo vostro. Sì. Ma... sì. il prossimo pezzo è Rocket. L'ha deciso lui. L'ha deciso lui. Sì, adesso, no, questa sì, è veramente una scommessa riuscire a farlo. Sì, anche perché non l'abbiamo mai provato. È incredibilmente elettrico questo maniera. Pezzo. Ma noi scommettiamo sempre. Grazie e buonanotte a tutti. Ciao, grazie a tutti. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Rock Wave. L'onda del rock. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock.